cambiare un'idea. Sei lontano, la catena in gabbia ormai. Non puoi restare nel limbo della tua mania. Non puoi restare nel limbo della tua mania. Occhi gialli, ali nere, nel mio veleno c'è, sei tu. Sei in difesa, la tregua e lo sai. Puoi andare, ma non credi, perciò resterai. Non puoi restare nel limbo della tua mania. Non puoi restare nel limbo della tua mania. Occhi già.